personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Oggi è una puntata a tinte forti, una puntata che scaverà anche attorno e all'interno dei nostri tabù. È una puntata veramente particolare, anche perché però si parte con un altro tipo di riflessione, cioè la colpevolezza. Chi è il colpevole? È uno che sa che compie un'azione delittuosa e basta? O è colpevole anche chi, senza avere architettato un delitto, finisce per compierlo? Beh, non è una risposta facile, si può dire che senza volontà non c'è delitto, però non si può prescindere dalle conseguenze di un'azione nefasta che magari causa la morte di qualcuno, insomma quello che per il codice penale è l'omicidio colposo. Assistiamo spesso a sentenze che lasciano senza parola, anche oggi, no? I parenti che fanno un funerale a un congiunto ucciso da un pirata della strada, sapendo che l'assassino è già agli arresti domiciliari o addirittura scarcerato. Insomma, è un argomento spinoso, perché il protagonista di oggi è un uomo che vive la tragedia nella sua accezione più pura, cioè commette dei delitti orrendi che sconvolgono non solo la sua vita ma anche quella di tutti i suoi cari, ma lo fa inconsapevolmente. Però al di là di questo c'è ben altro, c'è un tabù che nessuno di noi può superare a cuor leggero. Cittadini di Tebe, guardate, questo è Edipo. Edipo che risolse il grande enigma, che ci salvò da morte certa, che era l'uomo più forte di tutti, l'uomo che ebbe tanta fortuna che nessuno di noi ha mai guardato senza almeno un pizzico di invidia. Edipo. Lui il nostro protagonista di oggi, un nome che tutti conoscono se non altro per il famoso complesso di Edipo, forse il più noto concetto sviluppato nell'ambito della teoria psicanalitica da Sigmund Freud, che nomina con questo termine la maturazione del bambino che si identifica col genitore del proprio sesso e che ha un desiderio nascosto nei confronti del genitore del sesso opposto. È una teoria che ai tempi spiazzò, criticata da altri, fin dall'inizio diciamo che il dissidio tra Freud e Jung avviene quasi principalmente su questo. La scissione degli psicanalisti tra i freudiani e gli junghiani deriva anche da posizioni come questa sostenute da Freud. Insomma, Edipo ha fatto parlare parecchio, ha fatto litigare molti, ed è veramente comprensibile questo, perché la sua è una vicenda di quelle che hanno segnato un solco profondo nell'anima dell'umanità. La vicenda di Edipo prende l'avvio in un anno imprecisato nell'antica Grecia, nella mitica città di Tebe a nord del monte Citerone, tra la Beozia e l'Attica. I sovrani di Tebe sono Laio e la moglie Giocasta, e i due però sono afflitti perché non hanno un erede. Disperato per questa difficoltà nel concepimento, Laio si reca dall'oracolo di Delfi, tempio del dio Apollo, e l'oracolo di Delfi ha il dono di leggere il futuro, parla attraverso le sue sacerdotesse. L'oracolo gli spiega che quella apparente disgrazia, in realtà lui deve prenderla come una benedizione divina, perché il bambino destinato a nascere dalla sua unione con Giocasta porta con sé la tragedia, perché l'oracolo gli dice: tuo figlio ti ucciderà e sposerà tua moglie, generando figli maledetti e causando la rovina della tua casa. Non si sa se Laio crede o no all'oracolo, però rimane il fatto che quando Giocasta rimane incinta lui si ricorda di questa predizione, così, d'accordo anche con lei, quando nasce il loro bambino il re lo condanna a quella che ritiene una morte sicura. Il neonato subisce una sorte tremenda. Insomma, in quegli anni lì non si andava tanto per il sottile, gli vengono forate le caviglie per farvi passare una cinghia, e poi il piccolo viene esposto, come si diceva allora, viene appeso a un albero per diventare preda delle bestie della foresta. È una consuetudine terribile, barbara, che però si rivela inefficace in questo caso, perché il piccolo viene salvato da un servitore di Laio che si intenerisce e lo porta alla regina Peribea, che era la moglie del re di Corinto, Polibo. I due sovrani sono sterili, non possono avere bambini, il servitore è convinto che lo accoglieranno con amore e così è. Il re chiama il bambino Edipo, che in greco antico vuol dire piede gonfio, a causa delle sue ferite, delle ferite che ha alle caviglie. Insomma, ricapitoliamo, Edipo, figlio in realtà del re di Tebe, cresce a Corinto come figlio legittimo di un altro re, il re di Corinto. Un giorno qualcuno che magari invidioso di lui gli mette una pulce nell'orecchio, cioè gli dice: tu credi di essere di stirpe reale, in realtà sei solo un trovatello. Edipo chiede al padre, il re nega, lui non si fida, parte per Delfi, vuole anche lui interrogare l'oracolo e il responso che lo attende è molto triste. Il tuo destino è tragico, Edipo, ed è intriso dello stesso sangue che scorre nelle tue vene. Tu ucciderai tuo padre con le stesse tue mani e un giorno ti congiungerai con tua madre, dando origine ad una discendenza maledetta e causando la rovina della tua casa. Eh sì, la sacerdotessa di Apollo gli rivela il futuro lì a Delfi, è inorridita lei stessa dal suo vaticinio, scaccia Edipo perché lo ritiene una maledizione divina. Il giovane è atterrito da questa profezia e decide con grande dolore di non tornare mai più a Corinto per evitare che lui possa, per un motivo che non capisce, possa uccidere il padre e sposare la madre, cioè uccidere Polibo e sposare la madre Peribea, cioè quelli che lui crede siano i suoi veri genitori. Lui compie un grande sacrificio e questo ce lo dobbiamo ricordare quando saremo chiamati a giudicarlo. Lui abbandona per troppo amore i genitori che ama, rinuncia al trono, abbraccia una vita da povero pur di evitare di compiere un delitto. Non molto lontano dall'oracolo di Delfi però il destino lo sta aspettando per compiere il suo corso. Laio, il re di Tebe, il vero padre di Edipo, si sta recando con un manipolo di uomini proprio al santuario di Delfi per interrogare anche lui l'oracolo, perché non sa più cosa fare, è disperato per la sua città, perché a Tebe c'è una calamità che sta decimando la popolazione. Non è una malattia, è qualcosa di molto peggio, perché Tebe è stata presa di mira dalla Sfinge, il terribile mostro, un demone di distruzione, di mala sorte, un mostro che ha la testa di donna, il corpo di leone, la coda di serpente e le ali di un rapace, un mostro indistruttibile. La Sfinge si è accampata alle porte di Tebe per consentire il passaggio ai viaggiatori, pone loro un indovinello e strangola o divora chiunque non sappia rispondere. L'indovinello nessuno riesce a risolverlo ed è questo: quale animale, pur avendo una sola voce, si trasforma in quadrupede, bipede e tripede? I morti non si contano, la città è allo stremo delle forze, è stata abbandonata a se stessa, chi è dentro è dentro, chi è fuori, nessuno straniero si arrischia ad avvicinarsi a Tebe, che un tempo era un centro culturale e di scambi commerciali fiorenti. Il re Laio tenta l'ultima carta, spera che l'oracolo possa aiutarlo a sconfiggere la Sfinge rivelando la risposta del quesito. Riesce a sgattaiolare fuori dalla città mentre il mostro dorme e si avvia verso Delfi. Sulla sua strada però trova il suo destino, l'incontro col destino che ha il volto di Edipo. I due si incontrano, il cocchiere di Laio ordina al giovane di farsi da parte per lasciarli passare. Edipo però ha una testa calda, si rifiuta perché è di stirpe reale, non intende cedere il passo, e l'altro uccide uno dei suoi cavalli, passa col cocchio, gli ferisce un piede e Edipo si infuria, balza sul cocchiere, lo trapassa, poi lotta con Laio che rimane incastrato nelle redini. Edipo frusta ai cavalli che trascinano il re fino a ucciderlo. La prima profezia si è avverata, perché quello che lui credeva fosse un incauto avventore, un incauto incontro per strada, era suo padre. Chi ha compiuto con mani d'assassino cose che è vergognoso nominare fra tutte le vergogne? È tempo che si levi e fugga via, più forte dei puledri nel vento della corsa. Cercate in ogni luogo l'uomo che si nasconde, si perde fra selvagge foreste, tra le grotte, bestia di rupe, disperato, in corsa disperata. È solo, cerca scampo dai vaticini che pronuncia il cuore della terra. E tutta Tebe cerca l'assassino del suo re che era amato, che si prodigava per il suo popolo, ma non si sa dove cercarlo questo assassino, anche perché l'unico superstite del seguito del re Laio racconta che loro sono stati aggrediti dai banditi. Tebe annuncia il lutto cittadino, la regina Giocasta si veste di nero e sul trono viene posto come reggente Creonte, che è il fratello della regina. Intanto Edipo non sa di aver ucciso il re di Tebe, non sa di aver assassinato suo padre, vaga di luogo in luogo, convinto di essersi allontanato per sempre dalla tragedia della premonizione, fino a quando nel suo vagare arriva proprio alle porte di Tebe. Viene a sapere della terribile situazione in cui si trova la città a causa della Sfinge. I tebani sono alla disperazione più totale, perché la missione del re Laio è fallita, anzi il re è morto, e il nuovo re, il reggente Creonte, lancia un editto: chi risolverà l'enigma riceverà come premio il trono e gli verrà data in moglie Giocasta, la regina. Bisogna dire che Edipo è scaltro, è intelligente, è cresciuto alla corte di Corinto, ha studiato, è forte, è possente, insomma ha tutte le caratteristiche per poter sfidare la Sfinge. Lui decide di provarci. In fondo il destino è stato crudele con lui, lo ha obbligato a lasciare il suo regno per evitare una profezia tremenda, e adesso forse qualcosa, cioè il destino, gli restituirà quello che gli è stato tolto. Se troverà la risposta al quesito, sarà posto nuovamente dove merita di stare, cioè su un trono. Insomma, Edipo pensa che la sfida che si trova sul suo cammino gli sia stata inviata dagli dèi, e così è, ma per motivi diversi. L'indovinello, l'abbiamo detto, è: quale animale, pur avendo una sola voce, si trasforma in quadrupede, bipede, tripede? Edipo non ha dubbi, quell'animale è l'uomo, perché da bambino è quadrupede, perché gattona, da adulto cammina e da vecchio si aiuta con un bastone, quindi torna alle tre gambe. La Sfinge è battuta e sconfitta, si getta dall'alto della rupe sulla quale era appollaiata, muore. Tebe è finalmente libera e acclama il suo eroe Edipo, che ha salvato la città. Lui sale sul trono e sposa la vedova Giocasta. Tutto sembra perfetto, in realtà lui sta sposando sua madre, completando senza saperlo la terribile profezia dell'oracolo. Per alcuni anni Tebe vive tempi sereni. Edipo è un re saggio, ama teneramente la moglie Giocasta, ha quattro figli, due maschi, Eteocle e Polinice, due femmine, Antigone e Ismene. Però dopo un periodo felice la peste si abbatte su Tebe, muoiono famiglie intere, la città è nuovamente in ginocchio, la popolazione è decimata e c'è un sacerdote che va a far visita al re. Edipo, tu che governi la nostra terra, vedi, muore la città nei germi gonfi del suo suolo, muore nei pascoli delle sue mandrie, nei parti senza frutto delle sue donne. Le case si fanno vuote e l'Ade Nero accumula un tesoro di pianti e di lamenti. Tu sei arrivato in città da lontano e l'hai subito sciolta dal tributo che pagava all'aspra accantatrice, la Sfinge. Un dio ti è stato accanto, così dice la gente, tu hai salvato la nostra vita. E ora, Edipo, nessuno ai nostri occhi è più potente di te, e siamo qui a pregarti. Trova qualche difesa che ci salvi. Tu, il migliore degli uomini, rendi la vita alla città. Allora la fortuna fu con te, fallo ancora. Eh sì, tutti hanno fiducia in lui, lui li ha salvati già una volta, li salverà ancora. Edipo invia Creonte, il fratello di Giocasta, a Delfi per chiedere all'oracolo la ragione di quel flagello. Creonte torna portando la risposta della Pizia: la peste cesserà soltanto quando la morte del re Laio verrà vendicata e il suo assassino, che è ancora a Tebe, verrà scacciato o ucciso. Insomma, c'è un passato che riaffiora, torna a farsi sentire il peso di questo orrendo omicidio che ha portato via ai tebani il loro amato sovrano. Edipo è del tutto ignaro di essere lui stesso l'uccisore del re, che peraltro era suo padre, e lancia una maledizione terribile contro l'autore di quel delitto. Chiunque sappia chi ha ucciso Laio di Labdaco, parli. È un ordine. Parli senza paura. fosse pure per accusare se stesso. Sarà esiliato, incolume e nient'altro. Chi sa che l'uccisore è uno straniero, parli. E noi, grati, lo ricompenseremo. Se per paura, tacendo contro il mio invito, qualcuno si farà complice di se stesso o di altri, ordino, sentite bene, che il colpevole sia perseguito da tutti in questo stato su cui governo con forza di legge. Nessuno lo protegga o gli parli o divida con lui preghiera, rito, acqua lustrale. Sia scacciato come l'immondo vettore del tumore che ci ha additato l'oracolo. Così onoriamo e la divinità e il re ucciso. Avete naturalmente riconosciuto la voce del grande Vittorio Gassman, che nel 77 ha interpretato la tragica vicenda di Edipo. E sì, Edipo non può fare molto di più di quello che ha fatto, cioè non ha informazioni, non ha testimoni che possano dirgli come sono andate le cose, però deve prendere dei provvedimenti. La città è disperata, il suo popolo sta morendo. Gli viene suggerito di rivolgersi a Tiresia, che è un famosissimo indovino noto in tutto il paese, e Tiresia, grazie alle sue facoltà, conosce tutto il dramma di Edipo, sa ogni cosa, per cui cerca di evitare di essere interrogato dal re, perché ha delle verità che non può dire. Alla fine deve giungere al cospetto di Edipo, che lo assilla con le sue domande. Tiresia cerca di negare, non sa, non ricorda, non riesce a vedere il passato. Tutti capiscono che sta mentendo. Lui ha ricevuto il dono di conoscere il passato e il futuro direttamente dagli dei. Lui sa chi ha ucciso il re. Edipo insiste, minaccia, e alla fine Tiresia cede. Va bene, allora lo vuoi proprio sapere? Sei tu, Edipo, l'impuro che infetta questa terra. Sei tu l'assassino di tuo padre Laio. Scoprirai che sei marito e figlio della stessa donna, fratello e padre degli stessi fanciulli e causa di ogni dolore. La verità è stata detta, naturalmente non si può reggere a un'accusa del genere. Edipo non crede a Tiresia, si immagina un complotto ordito ai suoi danni, magari da parte dell'indovino e di Creonte, il cognato, forse pentito di avergli ceduto il trono. Scaccia Tiresia, convoca Creonte, che non solo nega tutto, ma lo fa anche ragionare. Perché lui, che vive come un re, comanda al pari di Edipo e di Giocasta, ha tutto ciò che desidera, compreso una famiglia che lo ama, perché dovrebbe rinunciare e rischiare di perdere tutto? In nome di cosa? Per vedere la sorella infelice, i suoi nipoti piangere il padre morto esiliato? No, Tiresia si è sbagliato. Può capitare anche un indovino bravo come lui, qualche divinità arrabbiata coi tebani, lo ha confuso, gli ha fatto credere quello che non esiste. Il ragionamento di Creonte convince Edipo, soprattutto lo convince quello che dirà Giocasta, decisa in ogni modo a mettere pace tra marito e fratello. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Edipo, l'eroe tebano, artefice e vittima di un dramma tra i più atroci nella storia, perché lui inconsapevolmente ha ucciso il padre, inconsapevolmente ha ereditato il suo trono, quindi ha sposato la madre e ha trasmesso questa maledizione ai figli concepiti da questa unione incestuosa e innaturale. La sua figura mitologica è una delle più indagate dell'età moderna, ha portato il padre della psicanalisi Sigmund Freud a formulare la nota, anche se discussa, teoria del complesso di Edipo. Edipo non conosce la tragedia che si cela nel suo passato, perché lui siede sul trono di Tebe perché ha sconfitto la Sfinge, ha sposato Giocasta, la regina, ma che in realtà è sua madre, e sempre senza saperlo lui ha ucciso suo padre, il re Laio, durante un duello scoppiato per futili motivi. Insomma, ha portato a compimento la terribile predizione fatta dall'oracolo di Delfi. Dopo anni di regno sereno, dopo aver generato 4 figli con Giocasta, Edipo deve affrontare un altro dramma, la peste che sconvolge Tebe e tutti che si rivolgono a lui, che li ha già salvati una volta, che è un re saggio. Lui interroga l'oracolo e l'oracolo gli dice che la peste è la punizione che gli dei infliggono alla città perché non si è ancora trovato l'assassino impunito di Laio. Allora Edipo interroga un indovino, Tiresia, l'indovino più famoso, per sapere chi è questo assassino. Tiresia alla fine è costretto a rispondergli che l'assassino è lui. Edipo non gli crede, grida al complotto, pensa al cognato Creonte e arriva la regina Giocasta che calma gli animi e che gli dice che è certa che l'indovino ha sbagliato. Bada a me e ti conforti che non esistono indovini sinceri. Con poche parole te lo posso provare. Non da Febo, ma da un suo ministro udì Laio un giorno una profezia. Diceva che era suo destino morire per mano di suo figlio e del mio. Ma Laio è noto. Morì per mano di banditi stranieri all'incrocio di 3 strade carraie. E il figlio di 3 giorni. Lo stesso Laio le spose su una montagna inaccessibile, legato per i piedi e le caviglie. E Apollo quindi non compì i suoi presagi, perché né il figlio uccise il padre, né questi morì come temeva per sua causa. I fatti certi, annunciati dagli aruspici, erano semplici voci. E questa era la bravissima e affascinante Lea Massari alle prese con il difficilissimo ruolo della regina Giocasta. Ma torniamo a noi. Edipo sente che Laio è stato ucciso all'incrocio di 3 strade e comincia a tremare, comincia a capire, perché è proprio all'incrocio di 3 strade che lui aveva ucciso tanti anni prima un vecchio con la sua scorta. Adesso teme di essere lui il regicida, cioè di vedere ricadere su di sé le sue stesse maledizioni. Comincia a pensare che forse Tiresia non aveva sbagliato del tutto e per fugare ogni dubbio viene chiamato a corte l'unico testimone, l'unico superstite dell'agguato a Laio, quello che aveva parlato di numerosi briganti e non di un solo assalitore. L'uomo ai tempi aveva chiesto di potersi allontanare dalla reggia e a vivere di pastorizia. Mentre si attende il suo arrivo, giunge da Corinto un messaggero che annuncia a Edipo l'improvvisa morte di suo padre, il re Polibo. In realtà è morto quello che tutti credono essere il suo vero padre. Per quanto addolorato dalla morte di Polibo, Edipo è sollevato perché il padre è mancato di vecchiaia, quindi la profezia non si è avverata, però teme ancora l'incesto con Merope, sua madre, quella che lui pensa essere sua madre. Quindi comunica al messaggero di Corinto che non intende tornare nella sua vecchia città, benché anche lì lo attenda il trono. Quando il messaggero sente le motivazioni di Edipo per togliere qualsiasi preoccupazione, decide di rivelargli quello che sa, un segreto conservato per tanti anni. In realtà lui non è figlio di Polibo e di Merope, era un trovatello che proprio lui aveva raccolto dalle mani di un servo di Laio. Edipo ricade nel tormento. Chi sono allora i suoi veri genitori? Deve scoprirlo a tutti i costi. Il mosaico si sta pericolosamente rimettendo a posto. L'oracolo maledetto sta gravando su di lui, sulla sua coscienza. Il messaggero di Corinto non sa chi siano i veri genitori. L'unico che può saperlo è il servo di Laio, l'unico superstite del terribile agguato nel quale il re ha perso la vita. Edipo capisce che tutta la sua esistenza dipende da quell'uomo, quel servo diventato pastore, che sembra essere il depositario di tutte le verità su di lui. Giocasta comincia a capire che qualcosa non va, comincia a mettere insieme i pezzi di quel terribile gioco di incastri, ha paura, vorrebbe che Edipo non indagasse oltre sul suo passato, che si accontentasse di sapere quello che sa, che era un trovatello allevato con amore dai sovrani di Corinto, è diventato un eroe che aveva risolto l'enigma della Sfinge liberando Tebe, e insomma accanirsi sul suo passato non può che portargli sventura. Edipo travisa l'atteggiamento l'abito della regina. Pensa che lei non voglia scoprire i suoi natali plebei, che non si voglia ritrovare sposata invece che a un principe greco, a un semplice figlio di pastore. Non capisce. Ma ormai lui deve sapere, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa gli dicano, deve assolutamente scoprire chi è, da dove viene. Sia quel che sia, anche se vile, la mia origine la voglio conoscere. Della donna parla l'orgoglio, ha vergogna dei... della mia nascita oscura, non io, che mi reputo figlio della generosa fortuna. Essa è mia madre, e i mesi che dal nascere come fratelli mi scortano mi han fatto via via piccolo e grande. Come la cambio la mia natura? E perché non dovrei saperla? E finalmente il vecchio pastore, quello che un tempo era il servo fedelissimo del re Laio, compare davanti a Edipo. È anziano, la sua voce trema, le sue parole sembrano le parole di chi non si ricorda bene, di chi ha vissuto troppo e troppo a lungo senza parlare con nessuno. E molti anni prima lui aveva deciso di ritirarsi sui monti, lasciando il palazzo reale proprio all'arrivo di Edipo, l'eroe vittorioso sulla Sfinge. Perché lo aveva fatto? Perché ha lasciato la regia come un fuggiasco? Forse per nascondere un segreto terribile. Il re lo interroga, lui è reticente, non vuole parlare, viene minacciato, lo tortureranno se necessario, e alla fine il vecchio cede. Quel bambino, appeso per le caviglie perché fosse divorato dalle belve, e lui lo aveva salvato, si era impietosito, l'aveva portato a Corinto, quel bambino che gli era stato consegnato dalla madre per essere ucciso, perché era stato predetto che avrebbe assassinato il padre e sposato la madre. Quel bambino era proprio lui, era Edipo. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Si sta compiendo il terribile destino di Tebe, la sventura si abbatte sulla città, ma si abbatte soprattutto sulla sua reggia e sui suoi sovrani, perché il vecchio pastore alla fine è stato costretto a raccontare una verità che lui avrebbe preferito tenere per sé. Il figlio dei sovrani è il portatore di morte e di sventura, sul suo capo pende un oracolo terribile. Eh sì, perché lui ucciderà il padre, sposerà la madre, dando origine a una prole maledetta. E allora, di comune accordo, i genitori l'avevano consegnato al servo perché lui lo uccidesse. Lui ha avuto pietà, lo ha affidato nelle mani di un uomo che lo aveva portato a Corinto, lo aveva portato lontano, tutto sembrava comunque finito e risolto. E invece la storia ha tessuto una trama terribile, la conosciamo ormai la storia. Lui è cresciuto alla corte di Corinto come figlio dei reali e poi ha cercato di sfuggire a quell'oracolo, quindi è scappato per non uccidere quello che credeva fosse il padre ed è andato a uccidere il vero padre. Ora Edipo sa tutto, si dispera, ha ucciso suo padre senza sapere che fosse suo padre, ha sposato sua madre credendola solo la regina di Tebe, ha generato 4 figli che gli sono anche fratelli. È troppo dolore per poter sopportare tutto questo senza perdere il lume della ragione. Su tutto si fa ormai chiara luce, e lascia che una volta, o luce, ancora ti guardi. Io nato da chi non dovevo, io congiunto con chi non dovevo, io uccisore di chi non dovevo. La notizia di questa scoperta tragica si diffonde per tutta Tebe, la popolazione è affranta, è sconvolta, fa fatica a concepire un orrore simile, la sofferenza del popolo si leva con una voce sola, è un coro lamentoso e carico di pianto. Vite degli uomini, una dopo l'altra vi conto, e siete pari al nulla. Ditemi, chi è l'uomo che è stato felice per più di un attimo? Un attimo per credersi felice e poi cadere. Ora ho te davanti agli occhi. Ho il tuo destino, Edipo disgraziato, e non so dire felice nessun uomo. Tu che eri il più potente, che hai mirato e colpito, e tenuto tra le mani la sorte più felice. Tu che hai distrutto la Vergine dei Canti dalle unghie d'avvoltoio, e ti sei alzato torre contro la morte per la patria. Perciò ti chiamavamo nostro sovrano. Hai conosciuto onori senza pari e hai regnato sulla grande Tebe. E adesso chi può dirsi più infelice di te? Il tempo ti ha trovato, il tempo vede tutto. E ora giudica queste tue nozze che non son nozze, dove da tanti anni il padre è il figlio e il figlio è il marito. Come ti piango, come grida la mia anima. Tebe piange, il lutto si abbatte sulla città doppiamente perché la regina Giocasta non regge a tutto questo orrore, si suicida impiccandosi al letto che l'ha vista moglie di suo marito e poi moglie di suo figlio. È una scena drammatica, raccapricciante, che racconta tutto l'orrore di questa vicenda in cui è impossibile dire chi abbia la colpa se non il fato. È impossibile tracciare una linea di demarcazione tra carnefici e vittime. Ma la tragedia deve ancora consumarsi in tutto il suo orrore. Edipo, alla vista della madre, sposa, impiccata, raggiunge un livello di disperazione insostenibile e niente lo trattiene più dal baratro in cui sta cadendo rovinosamente. Quello che gli accade lo racconta al popolo un messaggero reale interpretato da Gigi Proietti. Strangolata da lacci intrecciati, vedemmo la donna. E in un mugghio di orrore l'infelice allentò il cappio sì che il corpo cadde. Poi, vista atroce, strappò i fermagli aguzzi della veste di lei, li levò in alto, si trapassò le orbite urlando che non avrebbero più visto il male fatto e il male subito, né conosciuto o sconosciuto coloro che occorreva conoscere o sconoscere. Più volte fra le grida, levando in alto le palpebre, forava gli occhi che, feriti, rigavano di sangue il volto, ma non gocce di sangue, sanguinolenta pioggia piuttosto grandine. Edipo si acceca, non vuole più vedere l'orrore di cui è protagonista, si dispera, non ha via di scampo. Prima di fuggire da Tebe per sempre, è destinato a vagare senza meta tra le più terribili sofferenze, rivolge un saluto straziante ai suoi sudditi e ai suoi amici. Chi posso amare? Chi ascolterò? Con gioia, via, via, carissimi, via! Allontanate la peste che è in me, mortale, maledetta da Dio, dolente, muoia! Chiunque sia, chi mi ha tolto la morte, staccandomi dai piedi le rozze catene, sul campo dove rifiutato giacevo, morto allora ai miei cari e a me, non darei questa angoscia. Né colpivo il padre, né alcuno poteva dirmi marito di chi mi partorì. Ecco adesso, senza Dio, figlio di immondi, nel letto di sua madre. Ecco Edipo tirare in sorte l'orrore degli orrori. Cieco nel corpo, cieco nell'anima, Edipo vaga per tutta la Grecia, arriva in Attica, a Colono, e qui si addentra nel bosco delle Erinni. Le Erinni sono le terribili dee alate che puniscono col rimorso chi turba l'ordine morale, però che si trasformano nelle benevole Umenidi se il colpevole si pente. E Edipo è più che pentito, è travolto dal destino, viene accolto alla regia di Teseo, il re di Atene, e viene finalmente riabilitato, perché lui comunque ha vinto sulla Sfinge, è stato un re illuminato e carismatico, e alla fine è caduto nella tragedia più terribile, senza avere in realtà colpe specifiche. Ha terminato la sua avventura terrena ed è sparito per volontà degli dèi durante un temporale. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, che hanno lasciato un segno. Nel caso del nostro sciagurato protagonista di oggi, il colpo d'ala è stato il colpo d'ala del destino che lui ha dovuto subire senza neanche capirne i disegni per decenni. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24, oppure al nostro sito radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei e sui nostri social. Se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.